401. Petonciani in umido. Sbucciateli, tagliateli a tocchetti e metteteli al fuoco con un po' di burro. Quando lo avranno succhiato, tirateli a cottura con la salsa di pomodoro numero 125. 402. Petonciani in gratella. Tagliateli a metà per il lungo senza sbucciarli. Fate loro delle incisioni graticolate sulla parte bianca, conditeli con sale e pepe olio, poneteli in gratella dalla parte della buccia, poi copriteli con un coperchio o tegame di ferro e cuoceteli fra due fuochi, che così non hanno bisogno d'essere voltati. A mezza cottura date loro un'altra untatina d'olio. Saranno cotti quando la polpa è diventata morbida.